come te, però chissà perché non lo dimostri a me. Se tu ti decidessi a dirmi almeno sì, io non sarei ridotta così. Renato, Renato, Renato, così carino, così educato. Oh, oh, Renato, Renato, Renato, mi porti al cinema e guardi il film. Scommetto che nessuno bacia come te, però chissà perché non lo dimostri a me. Se tu ti decidessi a dirmi almeno sì, io non sarei ridotta così. Renato, Renato, Renato, come vorrei non averti amato. Oh, oh, Renato, Renato, Renato, tu sei un mostro di ingenuità. Renato, Renato, Renato, la serenata che ti ho cantato. Oh,